Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Quando ci sono 700 morti si tratta di fare una preghiera, a prescindere dal Dio in cui si crede, perché ci sono 700 donne e uomini che da innocenti sono morti. Ogni altro commento è di troppo. Questo ha detto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Matteo Salvini, leader della Lega. Forse qualcuno si sarebbe aspettato una dichiarazione diversa oggi a proposito di questa strage, ennesima strage alla Mecca in Arabia Saudita, luogo sacro di pellegrinaggio, dove però varie volte purtroppo è successo una cosa del genere, massacri anche arrivati fino a 1400 e passa nel 1990. Poi ne parleremo, per esempio, su una cosa come questa. Ha fatto un commento Buonanno, invece un altro esponente della Lega, che ha scritto oggi su Twitter: 310 morti per un pellegrinaggio, cose da pazzi, sono animali, più che alla Mecca dovrebbero andare allo zoo. Mentre appunto questa è la dichiarazione che ha fatto Salvini. Parleremo dunque di questo, e anche per capire come mai, visto che questo è una tradizione, un rituale che si compie di anno in anno, come mai non siano riusciti ancora a prendere delle misure di sicurezza per evitare queste stragi. Poi ci occuperemo ancora di migranti, di immigrazione, perché da ieri sono emersi soprattutto due aspetti, a parte la questione dei ricollocamenti: quello degli hotspot, cercheremo di capire cosa sono esattamente questi hotspot, e poi c'è l'alta rappresentante della politica estera europea Mogherini, che ha annunciato che partirà una nuova offensiva contro gli scafisti il 7 ottobre. Fra gli argomenti anche le pensioni, perché da una parte c'è il ministro dell'economia Padoan che ha aperto un po' alla flessibilità, visto che insomma i cordoni della borsa ce l'ha lui; dall'altra il presidente dell'INPS Boeri, che ha sottolineato la disparità anche negli assegni pensionistici tra donne e uomini, tanto per cambiare. Insomma, tanti gli argomenti. Parleremo anche della percentuale di tumori in Italia, che aumenta un po' più per le donne che per gli uomini, e se abbiamo tempo magari cercheremo anche di farci dare un decalogo, che non fa male rinfrescare un po' quelle che sono delle buone abitudini di vita per prevenire questa malattia. 349-238-6666, il numero sempre per le vostre opinioni sui vari argomenti che tratto nella trasmissione, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, potete aderire con entusiasmo senza indugio a qualsiasi ora. Partiamo con il riepilogo della giornata. La strage dei pellegrini alla Mecca, le vittime della ressa sono 717, ma il bilancio è destinato a salire. Lo scandalo Volkswagen, auto truccate anche in Europa, e l'amministratore delegato se ne va con 60 milioni di buonuscita, accuse pure a BMW. Il viaggio del Papa negli Stati Uniti, Francesco parla al congresso americano e dice no alla pena di morte e al commercio di armi. L'esodo dei migranti, allarme profughi dalla Turchia, che annuncia 7 milioni in arrivo dalla Siria, e la Mogherini parla di un'operazione europea antiscafisti che parte il 7 ottobre. Pensioni, Padoan apre la flessibilità, ma occhio alle coperture, avverte il presidente dell'INPS Boeri, punta il dito sulle disparità, gli assegni degli uomini superano del 40% quelli delle donne. Tumori in Italia calano tra gli uomini, in aumento invece tra le donne. Calcio, la rivolta delle donne, siamo trascurate, dicono e annunciano un possibile sciopero all'inizio della nuova stagione a ottobre. Cominciamo dunque dalla strage di pellegrini alla Mecca in Arabia Saudita, l'ennesima, vi dicevo, visto che sono purtroppo molti i precedenti. Nella calca sono morte 717 persone. È la festa del sacrificio, un pellegrinaggio annuale che questa mattina, come tutti gli anni, ha raccolto 2 milioni di fedeli vestiti di bianco in cammino lungo i 6 chilometri che collegano la Mecca al santuario di Mina. Nell'ultimo tratto una curva stringe il percorso, obbligando i pellegrini a fermarsi mentre cercano di raggiungere il luogo santo per partecipare al rito della lapidazione di Satana, il lancio di 7 sassi contro una rappresentazione del diavolo. Anche quest'anno la folla si è accalcata, trasformando l'evento in tragedia, ma non è appunto la prima volta. Nel 1990 erano morti 1400 e in 25 anni il rito ha causato la morte di 3000 persone. L'Arabia Saudita ha intanto mobilitato 100.000 agenti lungo il percorso per controllare la situazione ed evitare altre tragedie, ma l'Iran accusa comunque la pessima organizzazione. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi vi dicevo, torneremo su questo argomento. Adesso passiamo invece allo scandalo che ha travolto Volkswagen, uno scandalo che si allarga anche all'Europa, che ha affossato oggi le borse del vecchio continente. Gli indici hanno chiuso tutti con pesanti perdite sulla scia delle vendite che stanno colpendo Wall Street. Maglia nera va a Milano, che ha perso il 2,31%, e il titolo Fiat Chrysler in particolare ha chiuso con un calo del 7,5%. E intanto super buona uscita all'amministratore delegato dimissionario. Il primo nome a uscire dopo Volkswagen è BMW. Il titolo perde il 5%, ma la società rimanda le accuse al mittente. Non usiamo software che manipolano i test e siamo a norma, dicono dalla casa madre. In Spagna si parla invece di Seat, sempre del gruppo tedesco incriminato. Anche da lì arrivano rassicurazioni. Intanto il settore auto soffre e Fiat Chrysler perde il 7,5%. Tutti i paesi sono sotto i riflettori, dice la stessa Germania. Sappiamo che anche in Europa ci sono veicoli con motori diesel truccati, dichiara il ministro dei trasporti tedesco, mentre la Francia annuncia test su un centinaio di auto sorteggiate e Bruxelles si accorge che bisogna cambiare le regole. Non bastano test in laboratorio, ci vogliono quelli su strada e un'autorità indipendente che controlli. Il tutto mentre dagli Stati Uniti arriva un retroscena. Volkswagen aveva richiamato dei veicoli già ad aprile e sostituito i software per problemi di emissioni. Tutti questi dossier saranno presto sul tavolo del successore di Winterkorn. Tanti scommettono su Matthias Müller di Porsche. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a Torino il PM Guarinello ha aperto un'inchiesta sul caso Volkswagen. Tra i reati ipotizzati ci sarebbe anche il disastro ambientale. Su questo tema anche vi invito, se volete, a commentare, magari anche con un po' di ironia, certamente non volgarità, ma se volete un po' di ironia, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666, su, diciamo, il premio consolatorio che è stato dato all'amministratore delegato che ha lasciato Volkswagen. Prima si parlava di circa 30 milioni di euro, adesso si parla di 60 milioni di euro. Evidentemente gli conveniva andarsene via anche prima, se questo era il modo poi di vivere tranquillamente lui e le generazioni a venire. Che ne pensate di queste buonuscite favolose quando ci sono delle società che si trovano nei gruppi nel disastro, come in questo caso? Adesso però parliamo del viaggio del Papa negli Stati Uniti, perché oggi Francesco è andato al Congresso americano, il Parlamento americano, dove ha tenuto un discorso ed è il primo pontefice a parlare davanti al Congresso riunito in seduta plenaria. Tra i temi affrontati, la libertà e i diritti umani, e poi si è detto contro la pena di morte e il commercio di armi. Ma ne parliamo con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Marco, è vero che c'è stata una standing ovation anche da parte dei repubblicani su questi temi? Sì, il Papa è stato accolto come un leader di straordinaria autorità morale, autorevolezza morale, oltre che religiosa, e ha ricevuto, diciamo, la standing ovation del Congresso Unito, sia dei repubblicani che dei democratici, anche perché ha usato toni toni unitari, ha usato toni che sono stati un appello alle parti migliori, se così si può dire, dei politici e della gente, per affrontare quella che ha definito le ferite aperte del mondo, dall'odio alla povertà all'inquinamento. Quindi, diciamo, un messaggio che è stato accolto favorevolmente anche dai repubblicani, nonostante poi i temi su cui ha dedicato la maggior parte della sua energia e delle parole poi del suo intervento siano stati temi più cari sicuramente ai democratici, più cari ai liberali, ai valori progressisti. Senti, a proposito della pena di morte, sentiamo questo breve passaggio del suo discorso. This conviction has led me from the beginning of my ministry to advocate at different levels the global abolition of the death penalty. The global abolition death penalty. Questo ha detto, insieme alle altre cose che ci ricordava Marco Valsani, ha parlato molto anche dei sogni, che è stato un po' il cuore, no, del suo discorso, i sogni, da quello del sogno americano a Martin Luther King, no, I have a dream. E poi, so, per concludere, Marco Valsani, che so, fra le altre notizie, che Putin e Obama si dovrebbero vedere a giorni, ti risulta? Sì, risulta la prossima settimana, così a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tra l'altro alla quale interverrà comunque il Papa questi prossimi giorni, ma la prossima settimana Putin ha invitato Obama a un incontro a due, per il primo da molto tempo, da quando, dall'escalation della crisi sia in Ucraina che in Siria in particolare, proprio per affrontare questi temi caldi. Obama ha accettato l'invito, nonostante le differenze, ha fatto sapere la Casa Bianca, è importante, ha detto, è costruttivo comunque trattare ad alto livello con la leadership russa, proprio per vista la delicatezza e la gravità delle crisi sia in Ucraina ma soprattutto in questo momento in Siria, dove il ruolo russo è così importante, è certo, la diplomazia prima di tutto. Grazie Marco Valsani. Fra l'altro c'è da dire che Putin ha annunciato anche che incontrerà Elton John. Sapete che Elton John aveva ricevuto una telefonata a scherzo da dei comici russi con Putin, che gli diceva, questo finto Putin, voglio parlare con te, non voglio più discriminare i gay, eccetera eccetera. Lui ci aveva creduto, Elton John, e adesso Putin lo vuole incontrare veramente. Insomma, parliamo dell'esodo dei migranti. La Turchia ha lanciato un allarme prevedendo l'arrivo dalla Siria di 7 milioni di profughi, e intanto l'alta rappresentante degli esteri in Europa, Federica Mogherini, annuncia che un'operazione europea contro gli scafisti partirà il 7 ottobre. Di questo poi ci occuperemo, come ci occuperemo anche di pensioni. Ci sono varie ipotesi sul tavolo, lo sapete, ma la notizia è che il ministro dell'economia Padoan ha aperto un po' la flessibilità in uscita, sottolineato che però bisogna vedere se ci sono le coperture. Poi c'è il presidente dell'INPS Boeri che ha puntato il dito sulla disparità di assegni tra uomini e donne, per quelli degli uomini della pensione sono superiori del 40% in media. Anche di questo approfondiremo poi dopo qui Effetto Notte. Per la politica ci sono sempre tensioni a Palazzo Madama sul tema delle riforme. Intanto si apprende che il voto finale ci sarà entro il 13 ottobre. L'Aula del Senato voterà le riforme istituzionali il 13 ottobre. Pietro Grasso la spunta sulla maggioranza, che in conferenza dei capigruppo aveva chiesto di terminare l'esame del disegno di legge l'8 ottobre. Un comportamento, quello del presidente di Palazzo Madama, che viene apprezzato dalle opposizioni. La Lega ritira gli emendamenti all'articolo 1, 11 milioni su 85, ma anche SEL lascia solo quelli di merito. È ancora polemica però sui milioni di emendamenti presentati da Roberto Calderoli. Il senatore leghista risponde così a chi lo accusa di agire contro la Costituzione. Però mi sono stato accusato di mettere alla paralisi il Parlamento o di volerlo bloccare. Se io da solo riesco a bloccare il Parlamento, o siete scarsi voi o c'è qualcosa che non funziona nel regolamento. Fiduciosa nell'approvazione il ministro Maria Elena Boschi. All'ultimo minuto non lasceremo niente di intentato rispetto al confronto, al dialogo, ma sia anche chiaro che non possiamo accettare veti da parte di nessuno. In aula va in scena anche il primo asse verdiniani, maggioranza, bocciata la richiesta delle opposizioni di far ritornare il testo in commissione e non procedere all'esame degli articoli. Giovanni Toti commenta su Facebook: grazie ai voti di Forza Italia sono arrivati in Parlamento. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Vi ricordate lo scandalo di Parentopoli all'AMA, l'azienda della raccolta dei rifiuti di Roma? Ebbene, annunciano dall'azienda che sono pronti i licenziamenti. E poi ci sono i dati sui tumori in Italia, diminuiscono i casi anche se non per entrambi i sessi, mentre calano infatti per gli uomini, sono in leggero aumento per le donne. Fra queste incide soprattutto l'aumento del 36% fra il 1999 e il 2010 del cancro al polmone. Di questo parleremo più tardi con il presidente dell'AIOM. E per chiudere il calcio, il campionato di Serie A di calcio femminile, il cui inizio è previsto per il 17 ottobre, rischia di non partire perché l'associazione italiana calcio ha preso posizione sui problemi del settore, minacciando uno sciopero delle calciatrici. Non si gioca la posizione del sindacato qualora i problemi del movimento non dovessero essere risolti. Tra i nodi il fatto che il settore continua a essere trascurato, vi ricordate la polemica di questa primavera, ne avevamo parlato molto anche qui Effetto Note, poi problemi economici e l'attenzione verso il calcio femminile invece, risponde Carlo Tavecchio, presidente della FIGC, non è mai stata così alta e non dobbiamo disperdere questo patrimonio. Vedremo un po' che cosa succede insomma a ottobre. Intanto vedo velocemente, prima della viabilità, alcuni vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. A proposito per esempio dei 60 milioni di euro di premio, tra virgolette, l'amministratore delegato di Volkswagen dice: Cristiano, basterebbe mezza clausola nel profumatissimo contratto a far abbattere o almeno ridimensionare di molto, in caso per esempio di frode industriale o cose simili, le buonuscite di questi cialtroneschi soggetti. Ci sentiamo dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. c'è Clotilde al 349-238-6666 che mi fa una domanda da $1,000,000. Poi dice Ale: ricordo anche che molte donne che hanno lavorato godono della minima sociale, che molte donne che non hanno lavorato, dice Ale. Poi ci sono vari altri uomini che si stanno un po', diciamo così, contrariando di quello che ha detto il presidente dell'INPS Boeri, questa discriminazione tra gli assegni pensionistici, 40% maggiori quelli degli uomini rispetto alle donne. Ma poi spiega anche le ragioni e poi sentiremo e approfondiremo l'argomento, state tranquilli. E poi invece qualcuno dice, a proposito della Volkswagen, Marco: è ovvio, Roberta, che venga pagato così l'amministratore delegato, che dovrebbe prendere pari 60 milioni di dollari in uscita, perché stia zitto e copra altri in Volkswagen. Mentre Paolo Zunino da Pavia: alla farsa mancava solo l'indagine nostrale per disastro ambientale, costerà più a noi il procedimento oppure all'amministratore delegato? Ma lui pare che non costi in realtà, mi pare che si riempiano le tasche. Ma adesso vi ricordo le notizie principali della giornata e poi cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Volkswagen Berlino ammette emissioni truccate anche in Europa. Ci sono voci su BMW anche che travolgono il titolo. Torino intanto apre un'inchiesta. La sfida del Papa al Congresso americano: abolire la pena di morte. Stop al fondamentalismo più solidale, dice. Poi, per quanto riguarda le riforme in Italia, riforma del Senato, voto finale il 13 ottobre. Intanto c'è in atto uno scontro ancora tra Grasso, il presidente del Senato, e il Partito Democratico. Dice Grasso: non faccio il boia della Costituzione. L'Unione Europea lancia l'operazione antiscafisti, partirà il 7 ottobre. Intanto c'è questo allarme profughi della Turchia, 7 milioni in arrivo dalla Siria. Putin pronto al raid in Siria nel frattempo e vedrà Obama a Washington la prossima settimana, come sentivate prima. Pensioni: Padoan apre la flessibilità, ma dice bisogna tenere d'occhio le coperture. Poi c'è questa dichiarazione appunto di Boeri. Strage di pellegrini alla Mecca, 717 morti nella calca. E poi questa storia particolare di un ragazzo di 26 anni, California, paraplegico, torna a camminare dopo anni di paralisi, si muove grazie a degli elettrodi nel suo sistema nervoso. È un progetto dell'Università della California. Sentite un po', diciamo, l'atmosfera estremamente convulsa di oggi alla Mecca, vicino alla Mecca, durante il pellegrinaggio. Vi dicevo, questo massacro di dimensioni impressionanti, 717 morti, anche se il ministro dell'interno dell'Arabia Saudita dice che è destinato a crescere questo bilancio, purtroppo 800 feriti, per lo più tutti calpestati e soffocati. Una strage, questa, in un luogo sacro, appunto la Mecca in Arabia Saudita. Più precisamente, questo incidente è avvenuto nella zona di Mina, che si trova a circa 15 chilometri dalla Mecca, nella tendopoli, era una tendopoli dove alloggiano i pellegrini durante queste celebrazioni. È stata provocata, come in molte altre occasioni, da una calca, dalla ressa, secondo quanto hanno riferito televisione panarabe come Al Jazeera e Al-Arabiya, durante il pellegrinaggio musulmano annuale dell'Aji, si chiama, a cui partecipano circa 3 milioni di persone. Questa calca che ha provocato la strage sarebbe stata causata, sempre secondo queste fonti, da una fuga improvvisa di qualcuno, evidentemente. Le morti sono avvenute soprattutto per soffocamento. E in questi giorni i musulmani partecipano in tutto il mondo, celebrano l'Eid al-Adha, la festa del sacrificio, poi ce la facciamo spiegare tra poco dall'ospite, che è Massimo Campanini, docente di pensiero islamico all'Università degli Studi di Trento. Campanini, professore, buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Intanto, professore, ci spiega l'importanza di un luogo sacro come la Mecca per l'Islam? Ma sa, la Mecca è la città in cui è nato Mohammed, il profeta. Maometto. E quindi Maometto, sì. E quindi evidentemente è il luogo dove il profeta è ritornato dopo l'Egira, cioè dopo l'emigrazione a Medina, ha coronato la sua missione attraverso la conquista della Mecca, anche se poi dopo è morto a Medina. Quindi chiaramente la Mecca ha questo altissimo valore simbolico del luogo dove Dio si è rivelato, e non solo a Mohammed, Maometto, evidentemente, ma perché nella tradizione islamica, per esempio, Abramo ha costruito la Kaaba alla Mecca. Quindi c'è tutta una continuità di tradizione profetica nella storia profetica che si incentra su questa valle straordinaria, secondo i musulmani, che è la valle di Mecca. Questo pellegrinaggio si chiama Aji ed è in occasione del Leid al-Adha, la festa del sacrificio, che ricorda il sacrificio di Abramo. No, esattamente il contrario, cioè non è il pellegrinaggio che è in occasione della festa, è la festa che è in occasione del pellegrinaggio, nel senso che il pellegrinaggio, lo Hajj, è un pellegrinaggio che ha delle origini addirittura preislamiche e che è stato santificato e assorbito all'interno dell'Islam, e al termine dei giorni prescritti nel mese appunto di Zulhijjah, cioè il mese del pellegrinaggio, dove si fa il Hajj, c'è il Eid al-Adha, cioè la festa del sacrificio, che è la festa grande, la Eid al-Kabir, cioè la festa suprema, che conclude appunto le cerimonie del pellegrinaggio. Però prima di dire una cosa vorrei ricordare, perché è importante, che nell'Islam ci sono due tipi di pellegrinaggi, cioè c'è il Hajj e c'è la Umra, nel senso che il Hajj è il pellegrinaggio che prevede tutta una serie di riti come quelli che sono celebrati e che viene compiuto nel mese di Zulhijjah, mentre la Umra è un pellegrinaggio minore, viene normalmente chiamato pellegrinaggio minore, e si può fare in qualsiasi mese dell'anno. Quindi ci sono due tipi di pellegrinaggi e la differenza non è senza importanza. Però al di là di questo, professore, quindi di queste tradizioni, di questi riti con milioni di persone, è possibile, mi chiedo, visto che ci sono tanti precedenti di stragi, allora intanto solo meno di 2 settimane fa almeno 87 persone sono morte, oltre 180 sono rimaste ferite perché sono rimaste schiacciate da una gru sulla grande moschea della Mecca che si è schiantata a causa di una forte tempesta, ma ci sono, sempre relative alla calca, nel 2006 364 fedeli morti, altri 240 nel 2004, 180 nel 98, 340 nel 92, 270 nel 94. La strage più tremenda è quella del 1990 con 1426 pellegrini. È possibile che ancora non si siano dotati, diciamo, di misure di sicurezza adeguate, visto che quante stragi abbiamo raccontato? No, ho capito, ma il problema vede, cioè certo, adesso a parte che io non ho nessuna intenzione personalmente di assolvere i servizi di sicurezza sauditi, però a parte questo, voglio dire, il problema è che in certe fasi del pellegrinaggio lei trova, come avete detto anche voi, tra 2 e 3 milioni di persone che si muovono contemporaneamente e che si muovono contemporaneamente in spazi ristretti. E questo appunto è risaputo, e quindi proprio per questo dovrebbero aver da tempo. Lì, in quel senso lì, non c'è soluzione. Cioè la soluzione dovrebbe essere di dire, perché quando evidentemente è stato fondato il pellegrinaggio, è stato sancito il pellegrinaggio all'epoca del profeta, a Mecca probabilmente abitavano 80.000 persone. Allora 80.000 persone che si muovevano eventualmente tutte in un momento solo è ben diverso di 3 milioni. No, quindi, questo senz'altro, però ma è questo il problema essenzialmente. Cioè io vorrei vedere se ci fossero 3 milioni di persone a Roma che girano attorno al Colosseo, come reagirebbero le forze di sicurezza italiane. Su questo fu questa ragione, però credo che negli anni, se si accumulassero migliaia e migliaia di morti, forse qualcuno si farebbe un po' sentire. Però intanto io la ringrazio, giustamente non può dare una risposta definitiva a lei su questa cosa, purtroppo no, certo. I morti sono tanti. Grazie professor Campanini. Buonasera. Grazie a voi. Europa 24 notte. Adesso parliamo invece dell'emergenza, non emergenza all'altra, emergenza migratoria, con Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Allora, intanto l'alto commissario ONU per i rifugiati, Antonio Guterres, ha espresso oggi una certa insoddisfazione per il risultato del vertice di ieri, vertice europeo dei capi di Stato e di Governo, perché ha detto non ci sono stati previsti interventi destinati a offrire percorsi sicuri ai profughi che sono appunto in cerca di asilo per raggiungere l'Europa. E a questo proposito, a proposito di percorsi sicuri, l'Ungheria cosa ha fatto? Dopo aver fatto il muro con la Serbia, aver annunciato quello con la Croazia e con la Romania, adesso ha deciso di costruire un muro anche al confine con la Slovenia, quindi insomma diciamo che si va in direzione opposta. E poi c'è questo allarme profughi da parte della Turchia, che dice che dalla Siria sarebbero in arrivo 7 milioni di... Sì, diciamo che come ormai vediamo da settimane ci sono due percorsi tra virgolette paralleli. Il primo è quello che l'Europa fa tra divisioni, lotte. Ieri quantomeno un piccolo segnale di unità, non hanno litigato in modo evidente, si sono accordati su un minimo comune denominatore, perché hanno alla fine messo giù un testo che poteva andare bene a tutti, no? Dopo aver litigato in modo anche pesante sulle quote, hanno dato un'unità di facciata. Per rispondere a Guterres bisogna dire, vista l'Europa che abbiamo visto nelle ultime settimane, è un passettino, guarda, Torenzi, sì, è un passettino in diciamo avanti. Che avere grandi passi in avanti, come chiede anche giustamente l'ONU, è purtroppo impensabile in questo momento. Oggi tra l'altro c'è stata la notizia dell'avvio di una missione Sofia, che sarà la fase 2 di UNAVFOR Med, questa missione al Mediterraneo, che comprende attualmente 4 navi, che finalmente, dopo diversi mesi in cui hanno studiato le rotte ai migranti, hanno studiato soprattutto i traffici di esseri umani, potranno, dal 7 ottobre ad annunciarlo è stata l'alto rappresentante Federica Mogherini, potranno arrestare in acque internazionali, attenzione, non in acque libiche, potranno farlo solo in acque internazionali, sospetti trafficanti, sospetti scafisti, cioè potranno veramente cominciare a usare anche la forza verso chi sfrutta questi traffici. Questa è una buona notizia, attesa, ma ora abbiamo anche una data. E poi c'è la questione hotspots, che è la questione che interessa molto l'Italia, perché ieri stanotte il presidente europeo Tusk ha detto entro novembre devono essere operativi. L'Italia con Alfano, vediamo cosa sono gli hotspot, sono i centri di identificazione, sono i centri di identificazione e registrazione, perché come dicevamo ieri sera il problema contestato all'Italia dagli altri partner europei è sempre lo stesso: su tre che arrivano migranti ne identificate uno, gli altri due li ritroviamo poi negli altri paesi. E allora l'idea dell'Europa è fare in modo che vengano identificati, magari non tutti, perché tutti può diventare impossibile, ma il maggior numero possibile. Questi hotspot nei paesi di confine, a questo dovrebbero servire, gestiti dalle autorità nazionali, ma con la presenza di esperti europei, di Frontex, dell'Agenzia Europea per l'Asilo, eccetera. L'Italia vuole e ha ottenuto anche che a questi hotspot si accompagnino i rimpatri e i ricollocamenti. E quindi, perché l'Italia dice devono andare pari passo, non possiamo dare solo noi, devono dare anche gli altri. E abbiamo sentito proprio su questo il prefetto Mario Morcone questo pomeriggio, che è il capo del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione al Ministero dell'Interno, che ci ha dato qualche dettaglio in più. Sentiamo. Noi siamo già in parte pronti, avevamo già comunicato in Europa che alcuni sono già in grado di operare. Qui bisogna capirsi però, l'hotspot è una modalità di lavoro insieme, una modalità di lavoro assieme alle agenzie europee, ai funzionari internazionali e alle istituzioni italiane. Novembre perché è un pacchetto di misure che sono gli hotspot, ma contemporaneamente sono la ricollocazione delle persone nei numeri che conosciamo e i rimpatri, cioè tre questioni che vanno esattamente assieme, non separate. L'Italia potrà essere pronta prima ad avere tutti i suoi hotspot operativi e se sì quando? Tutti non lo so, certamente alcuni funzioneranno e già funzionano come le ho detto, e soprattutto io credo che potremo fare anche qualche ricollocazione di migranti ben prima, forse già dalla prima decade di ottobre. Ecco, Morcone, diciamo tra gli hotspot che funzionano già citava soprattutto Lampedusa e Pozzallo. Alfano ha detto il primo hotspot che apriremo a novembre sarà quello di Lampedusa, gli altri entro fine anno. Questo per completare un po' il quadro. Questo è il quadro, e poi non resta che vedere appunto come funzioneranno questi hotspot. Dimmi solo, i finanziamenti arrivano dall'Europa per questi hotspot? Cioè, beh sì, chiaramente c'è personale europeo, l'Europa ci mette dei soldi, poi bisogna vedere, insomma è un esperimento anche questo, quindi bisogna capire un po' come che funziona. Che risultati avrà. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. Europa 24 notte. collaborazione con Euronet Plus. E già molti ascoltatrici e ascoltatori, penso soprattutto ascoltatori, stanno scrivendo a proposito delle pensioni e della dichiarazione di Boeri sulla disparità tra uomini e donne. Emanuele da Vicenza: ma quelli dell'INPS non sanno che i maschi hanno gli assegni più alti perché hanno versato di più? E poi, dov'è finita la proposta di Boeri di un sussidio per tutti i disoccupati ultra 58enni fino alla pensione? E poi molti altri messaggi: ma le donne non vanno in pensione prima e muoiono dopo? Insomma, questi uomini scatenati. Parliamo tra poco di pensioni. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure la pagina Facebook di Effetto No. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Vedevo Maurizia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Roberta Giordano sempre con voi, fino alle 22, che scrive a proposito del premio di consolazione che daranno all'amministratore delegato dimissionario in Volkswagen, che varia dai 30 ai 60 milioni di dollari, perché le cifre ballano un po'. Maurizia dice: o sono ultra sicuri che nonostante tutto il danno economico non sarà molto rilevante, oppure devono mettere a tacere altri difetti, oppure sono scemi. Queste le tre possibili buste, numero 1, numero 2, numero 3. E qualcun altro che dice, esempio al 349-238-6666, ha inviato un messaggio: nelle buone uscite dei manager, compreso il silenzio circa segreti vari e l'assunzione di colpe al posto dei capi, non è pensabile, dice, che l'amministratore delegato decida linee d'azione illegali di sua iniziativa. E insomma, comunque penso se ne sia andato contento e felice di questi soldi, possiamo immaginarlo senza troppa difficoltà. Vi ricordo quali sono le notizie più importanti a parte lo scandalo Volkswagen, e poi parleremo di pensioni. La strage dei pellegrini alla Mecca, le vittime della ressa sono 717, oltre 800 i feriti, ma il bilancio è destinato a salire. Lo scandalo Volkswagen, ne avete parlato anche voi appena adesso, auto truccate anche in Europa, l'amministratore delegato se ne va con 60 milioni di buonuscita, accuse pure per BMW. Il viaggio del Papa negli Stati Uniti, Francesco parla al congresso americano, dice no alla pena di morte e al commercio di armi, vedo adesso che sta salutando Washington per partire per New York. L'esodo dei migranti, allarme profughi dalla Turchia che annuncia 7 milioni in arrivo dalla Siria, e la Mogherini annuncia operazioni europee antiscafisti al via il 7 ottobre, ne abbiamo appena parlato. Pensioni sarà l'argomento tra pochi istanti, e poi tumori in Italia calano tra gli uomini, in aumento invece tra le donne. Per il calcio, la rivolta delle calciatrici: siamo trascurate, dicono e annunciano un possibile sciopero all'inizio della nuova stagione a ottobre. Il governo è comunque impegnato ad analizzare la questione a partire dalla legge di stabilità e compatibilmente con il quadro generale di finanza pubblica. Così parlò il ministro dell'economia Padoan oggi in un'audizione alle commissioni bilancio e lavoro di Camera e Senato. Insomma, apre all'intervento sulle pensioni nella manovra, a proposito della flessibilità di cui si parlava in questi giorni, e in particolare anche degli esodati. Ha detto che il governo è impegnato appunto ad analizzare la questione, che bisognerà però vedere se ci sono le coperture, perché dice che qualsiasi intervento avrebbe un impatto sull'indebitamento dell'Italia in genere, probabilmente anche prima di tutto dell'INPS. E poi c'è anche una dichiarazione di Boeri che sta facendo molto discutere, ma ne parleremo dopo. Prima parliamo di questa apertura di Padoan con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera, ciao Alberto. Si sta prendendo una linea? Si sta decidendo che fare? Beh, diciamo la verità che il ministro Padoan ha parlato da ministro dell'economia e del tesoro, cioè ha detto si può fare se i conti tornano. Ecco, il problema è che queste cose si fanno e i conti poi non tornano, perché comunque prevedono maggiori o minori onerosità per il bilancio pubblico. Abbiamo detto che ci sono programmi che contemplano una spesa che oscilla fra 1 e 4 miliardi, probabilmente quello che il governo farà proprio è quello che oscilla intorno a 1 miliardo come spesa, ma ancora i dettagli poi non ci sono. E probabilmente verrà limitato alle persone che avranno finito l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e sono a rischio di diventare esodati perché troppo ancora lontani dal termine di acquisizione della pensione con il criterio della vecchiaia, così come imposto dalla legge Fornero. Quindi vedremo, insomma, c'è stato un piccolo passo avanti politico, perché fino a qualche giorno fa era più marcata la divergenza di atteggiamento fra Palazzo Chigi e il Tesoro. Oggi Padoan ha effettivamente aperto in modo anche formale, insomma, vista anche la sede in cui parlava. Anche se dire vediamo se si possono fare, ma vediamo se ci sono le coperture, più o meno vuol dire dare un colpo al cerchio con la botte, ma diciamolo qua e poi non lo diciamo più. Dopodiché chiedeva, per esempio, un ascoltatore: dove è finita la proposta Boeri di un suo presidente dell'INPS, di un sussidio per tutti i disoccupati ultra 58enni fino alla pensione. Tu ti ricordi questo aspetto? Sì, è rimasto credo nel cassetto del presidente dell'INPS e non ha, o meglio, forse è rimasto nel cassetto del ministro dell'economia e del ministro del lavoro. Perché da lui era partita la proposta, però poi si è fermata lì. Invece sentiamo una cosa importante che ha detto oggi sempre Boeri nell'audizione a Camera e Senato. La spesa media per prestazione è più alta per gli uomini che per le donne, in particolare questa era al 2014, diciamo che mediamente le pensioni degli uomini sono del 40% più alte di quelle delle donne. Su questo piano c'è stata una parziale riduzione nel corso del tempo, però molto contenuta. Vi dico che nel 2006 era del 44% più alta degli uomini, adesso è attorno al 41%. Siamo lì però. Allora, subito si sono contrariati gli ascoltatori, perché sono uomini quelli che hanno scritto di queste cose. Dice: ma come, le donne vanno in pensione prima tanto e muoiono dopo? Oppure non lo sa l'INPS che gli uomini versano più contributi? Ma poi Boeri ha anche spiegato che intanto dipende da due motivi principalmente, Alberto Rioli, tu mi insegni, perché i salari delle donne intanto quando sono nel mercato del lavoro sono a parità anche di mansioni, di qualifiche eccetera, spesso il 50% in meno, dice Boeri, di quelli degli uomini, quindi già lo stipendio. Poi è chiaro che quando, per quanto riguarda le regole pensionistiche, una grossa componente della disparità, dice, è legata alle pensioni di anzianità che hanno storicamente avvantaggiato gli uomini con delle carriere prevalentemente continue e maggiore anzianità contributive, no? Dato poi i risultati di genere, evidentemente. Il passaggio dal 40% dal 44 al 40% non è una gran cosa, effettivamente, quello che ha citato Boeri poc'anzi. Evidentemente c'è stato un piccolo miglioramento, ma le regole ancora distorcono il sistema. È chiaro che incidono le pensioni di anzianità, che qualche decennio fa sono state cospicue, hanno interessato una vasta fascia della popolazione lavorativa, soprattutto maschile, e questo poi, quando vai a fare il grande calcolo di differenza di genere, ha il suo peso naturalmente. L'altro fattore è quello che dicevi tu, della disparità salariale, che purtroppo è storica, sta migliorando, ma è ancora molto pesante. E i lavoratori dipendenti che citava oggi, tra i lavoratori dipendenti, dato citato oggi da Boeri, i salari delle donne sono il 68,8% di quello degli uomini che fanno un'occupazione comparabile, e questo è un dato del 2013 come lavoro dipendente. Il 50% che citavi tu prima è relativo al lavoro parasubordinato, cioè quelli, insomma, al mondo, chiamiamolo così, vagamente del precariato, ecco, diciamo così. E lì c'è una differenza proprio del 50%. Questo, come si sa, è molto grave. Ci sono state anche normative che inducono appunto ad aumentare la parità di genere nelle retribuzioni. Qualcosa si sta facendo, ma ancora evidentemente siamo abbastanza indietro. Già, comunque è importante che quantomeno l'abbia denunciato e riconosciuto il presidente dell'INPS. Questo indubbiamente è vero, sì, ha riposto il tema all'attenzione dell'agenda dei decisori di politica economica. L'altra cosa interessante è che è drammatica, ahimè, è che il 53% dei fruitori di pensioni sono donne, quindi ha maggior ragione. Già, grazie Alberto Rioli. Grazie a te. E buon lavoro. Grazie. Tanto prima che vada in pensione anche Alberto, c'è tempo. Viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ecco, dunque avete sentito un po' di risposte per gli uomini che dicevano: ma come, ma noi diamo più contributi eccetera. Avete sentito quali sono i motivi per i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso ci soffermiamo su un altro argomento. Vi ricordo velocissimamente le notizie più importanti: dallo scandalo Volkswagen che si allarga anche all'Europa, e ci sono voci anche su BMW che travolgono il titolo, poi la sfida del Papa oggi al Parlamento americano, ha detto bisogna abolire la pena di morte e anche il commercio di armi, poi il voto finale sulle riforme in Italia, ci sarà il 13 ottobre, continua la tensione tra il presidente del Senato Grasso e il PD, e l'Unione Europea che per l'emergenza immigrazione lancia l'operazione antiscafisti, dovrebbe partire il 7 ottobre. Ora invece parliamo col professor Carmine Pinto, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, l'AIOM. Buonasera professore. Buonasera a voi. Parliamo dei dati che sono emersi dall'ultimo censimento proprio dell'AIOM, dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, e dell'Associazione Italiana Registri Tumori. In Italia nel 2015, per ora insomma, sono 363.000 le persone colpite da tumori, diminuisce il numero degli uomini colpiti, ma gli stessi risultati non si hanno tra le donne, che hanno registrato una lieve crescita. E il dato particolare è che in 11 anni le donne hanno visto aumentare del 36% l'incidenza del cancro al polmone. Tra l'altro, professor Pinto, leggevo dal vostro rapporto che si ammalano mediamente quasi 1.000 persone ogni giorno, ho letto bene? I dati sono questi: in Italia abbiamo ogni giorno, in una giornata come questa, 1.000 nuove diagnosi di tumore e circa 500 decessi nella stessa giornata, quindi è ancora una patologia estremamente importante. È la seconda causa di morte per tumore, oramai tra gli uomini equivale alla malattia cardiovascolare, mentre ancora rimane la seconda causa nel sesso femminile. Diciamo che il dato rilevante è che c'è una riduzione dell'incidenza di tumore nel sesso maschile. Professore, mi perdoni, la sento piuttosto male, quindi la sentiranno male anche gli ascoltatori. Non so se il telefono sia il telefonino, lei oppure... No, sono un telefono fisso, forse teniamo male il telefono. Forse, meglio così, sì, grazie. Dicevo, i dati rilevanti secondo me riguardano i miglioramenti che abbiamo ottenuto sui dati di sopravvivenza nei nostri pazienti. Tenga conto che negli ultimi 20 anni la sopravvivenza a 5 anni è migliorata del 18% tra gli uomini e di circa il 10% nelle donne, questo è un dato molto rilevante. E se andiamo a valutare la sopravvivenza per le patologie neoplastiche tra i pazienti che sono curati in Italia e i pazienti che sono curati in Germania, Francia, Inghilterra e Spagna, i pazienti italiani sono quelli che sopravvivono di più. Questo vuol dire che probabilmente in Italia abbiamo un buon sistema sanitario nazionale. Meno male, speriamo che si continui in questo senso. Professor Pinto, senta, ma questa cosa che tra le donne aumenta il rischio di, anzi, il fatto di essere colpite dal tumore al polmone, è un cambiamento di abitudini delle donne che assomigliano più a quelle degli uomini, il fumo? Questo è il dato negativo che viene dai dati dei numeri del cancro del 2015. Se parliamo degli uomini, c'è un dato molto interessante, che nel sesso maschile l'incidenza del cancro del polmone si è ridotto di quasi 1% per anno, e così anche la mortalità. Nelle donne purtroppo la tendenza non è questa, perché i nuovi casi di cancro del polmone tra il 2006 e il 2014 sono il 2,7% in più per anno, con quasi 2 punti in più per cento di mortalità per anno. Come se lo spiega? Questo ve lo spiego perché dal 2003, quando per la prima volta nel nostro paese sono state modificate anche le normative, ad esempio quelle sul fumo nei locali pubblici, una cultura tra i giovani, la pubblicità e così via, i maschi hanno smesso e le donne no. E se andiamo a rilevare i dati della sorveglianza PASTRI sullo studio di sanità, è estremamente interessante che sono cambiate anche le fasce di età. Adesso la fascia di età dei maggiori fumatori è tra i 25 e i 34 anni, classe di istruzione non più bassa ma medio alta, con un 7% di forti fumatori sulla popolazione globale con 20 sigarette al giorno, più di 20 sigarette al giorno, e le donne tra i 50 e i 69 anni. Professor Pinto, allora diciamo che ci sono, da tempo si ripetono quelle che sono delle buone abitudini di vita salutare, quindi niente alcol, poco alcol, niente fumo, un po' di attività fisica, un'alimentazione sana. Lei che ne dice però di questa ricerca che era stata pubblicata su Science lo scorso gennaio dell'università della John Hopkins School of Medicine americana, che diceva che in molti casi i tumori colpiscono per caso. Una questione di fortuna, è una cosa che ha molto impressionato questo, per cui dice, allora... Diciamo che secondo me è un errore del mondo stesso, questo è il mondo di Wolfgang che ha pubblicato questo lavoro, è questione di fortuna o di sfortuna fino a un certo punto, voglio dire. Se noi camminiamo in una strada dove ci sono 100 persone, è più facile, voglio dire, che un sasso colpisca una persona rispetto a quella strada dove camminano 10 persone. Il punto è questo, che ci sono alcune cause esterne che sono legati a fattori ambientali e anche ad abitudini di vita, c'è una parte che è legata sicuramente ad una predisposizione anche di tipo genetica, non ereditaria, ma una maggiore suscettibilità ad ammalare di questi due, di questa malattia. Mm. Il punto è che le due cose devono andare insieme, voglio dire. Se uno non fuma, voglio dire, non è questione di fortuna o sfortuna, il rischio di ammalare del tumore del polmone, l'abbiamo visto nel rapporto tra maschi e femmine, diminuisce in maniera sostanziale. Se uno non è esposto ad amianto, sicuramente non ammalerà di mesotelioma, di pleura, del peritoneo, mentre il rischio è molto alto perché è esposto a questa fibra minerale. Quindi fortuna o sfortuna fino a un certo punto, ma se lanciamo quel sasso o 10 sassi, chiaramente si riduce il numero dei pazienti o delle persone che ammaleranno di questa malattia. Spero di essere stato chiaro. Sì, quindi aiutati che il Celta aiuta, insomma, nel senso, se c'è la fortuna, allora, tu cerchi anche di coltivare. Non tutti i fumatori ammaleranno di cancro del polmone, questo è evidente. E anche ci sono non fumatori che si ammaleranno, no, di cancro del polmone. Assolutamente sì. Professore, ci dica solo una cosa che le consiglia negli ultimi 30 secondi che ci rimangono, una cosa che consiglia assolutamente di fare o di non fare. Il consiglio è sicuramente quello sul fumo, l'abbiamo già ripetuto. Lato su abitudini di vita, quindi evitare l'obesità, fare dell'adeguato movimento fisico e soprattutto, e questo lo dico con estrema chiarezza, per le donne di partecipare agli screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella con la mammografia e della cervice uterina, e per gli uomini e per le donne per il tumore del colon rettale. Grazie professor Carmine Pinto, grazie molte. Grazie a lei. Buona serata, ci sentiamo alle 22.